Va ora in onda Caffè e Paglia. Squadra grande, squadra mia, la domenica mi tieni compagnia. Sei lo sfogo alle amarezze, che bellezza quando rime dai in gol. Squadra grande, squadra mia, risvegliare sai la mia fantasia. Mentre giochi si scatena un'emozione, trovati, buon lunedì a tutti, un ben trovati dal Caffè e Paglia, il contenitore sportivo del lunedì mattina di Radio Città Fucico. Sai, è quel tempo un po' strano, il tempo di una finale, stiamo per giocare una finale ancora una volta. Un saluto a Mingo all'interno del salotto buono dello sport bolognese, alla mia sinistra il buon Simone. Ciao Simone. Buongiorno, non ce la faccio più, ma l'amico mio Massi Bastolini non si decide di nascere oggi 50 anni fa e mi fa: stasera ci abbiamo l'aperitivo. Io ho detto ma stasera c'ho la finale. C'è la finale stasera. Vedrò da farsi. Giorno, bella Massi. Bravo Massi, ma l'aperitivo almeno in un luogo dove ci sia la televisione. Bravo. Alla mia destra invece la stella della trasmissione, il grande Fio. Buongiorno, un cinque alto a quegli sportivoni dei nostri ascoltatori, un bacio con lo schiocco a quelle meraviglie delle nostre ascoltatrici. Oh ragazzi, io me l'ero tutta apparecchiata, perché quando la Supercoppa non era ancora una cosa seria, io dicevo: beh, la finale sarà di domenica sera. Non è vero, è di lunedì. Siamo stati presi in contropiede dai ragazzi. E vorrei aggiungere, io spero che sia completamente vuoto lo stadio, perché qualcuno si aspettava il derby di Milano in Arabia pieno di gente, e invece ci sarà Bologna-Napoli, cioè la vincente del campionato contro la vincente. La vera Supercoppa. Quella che doveva essere la Supercoppa. Sono molto contento di questo. Chi vuole fatto, l'aveva detto che era un regalo per Inter e Milan essere presenti, e infatti l'hanno preso. Quindi ripartiamo da lì, ripartiamo da venerdì, quando il Bologna ha giocato la semifinale contro l'Inter. E ripartiamo dal maglione di Fio. E ripartiamo sul maglione clamoroso. Clamoroso. Lo potrete vedere clamoroso anche sui nostri social. Potete vedere il maglione dell'ottimo Fio. Però ritorniamo a venerdì, seconda semifinale di Supercoppa dopo la prima semifinale vinta dal Napoli. Il Bologna affronta l'Inter. Bologna che è un po' la bestia rara dell'Inter storicamente, gliene sta dando gli ultimi due anni, gliene state dando due anni, però anche storicamente, no, le grandi sfide, lo scudetto, lo spareggio UEFA, quando c'è qualcosa in ballo, diciamo così, pur arrivando l'Inter da favorita in diversi decenni, stiamo parlando di vari decenni, corso dei secoli, ormai è quasi ufficiale, diventa ufficiale, nel senso che passando così tanti anni di differenza, arriva. Parliamo prima della partita? Ma certo. Torniamo un attimo alla partita? Sì, facciamo un... diamo un senso a tutto questo. Allora, noi siamo i secondi a giocare, perché l'altra semifinale c'è già stata, e ci racconta che comunque un po' di turnover lo fanno tutti, volenti o nolenti, un po' di spazio a chi magari deve recuperare un infortunio, o magari a chi viene impiegato per la prima volta da la vetrina per il calciomercato. Certo, no, parliamo pur sempre del calcio italiano, prodotto di esportazione, un cavallo di battaglia di questa redazione, che comunque, visto che non scaleremo le vette del capitalismo, almeno lasciateci aver ragione, almeno quello. Quelle poche cose. E veniamo, andiamo in campo con già il racconto dell'altra partita, Milan-Napoli, in cui si è visto che la voglia di giocare a calcio c'è, a livello più concettuale che fattuale. Cioè, partite che comunque vengono vagamente, più o meno vagamente condizionate da errori e da forse concentrazione che è un po' latita vista la distanza dai campi di casa. Esatto. Questo per quanto riguarda appunto Milano. Si parte con Bologna-Inter e dopo qualche minuto, un minuto forse credo, un minuto e mezzo, una cosa che il Bologna già ha avuto in stagione, diciamo così. Ricordo un gol del Parma dopo 13 secondi, quant'erano? Una roba del genere. 16, una cosa del genere, rapida. Una roba veramente veloce, questo è un filo più tardi, ma si parte subito 1-0 per l'Inter. E qui con insomma il periodo del Bologna non brillantissimo, dalla Cremonese in avanti, diciamo così, con alcune partite, esatto, la Juve in mezzo, è vero, la vittoria in Europa League a Vigo è quella che ha, diciamo, in questo periodo il momento migliore del Bologna, si parte subito 1-0, però la squadra c'è, la squadra si vede che ha comunque studiato un buon piano gara ed è comunque in gioco e se la gioca la partita. Sì, se la gioca, c'è tanto gioco del pallone nel primo tempo e si può subito immaginare che tutto quello che vediamo in campo ci racconti una reazione dei ragazzi e che la partita si possa riprendere. E effettivamente, ragazzi, giochiamo a pallone, se lo impegniamo molto. Martinez, preferito tra i pali a Sommer, Martinez, io me lo ricordo, fece con la maglia del Genoa una partita incredibile. Fece una stagione incredibile. Fece una grande stagione, è un'incredibile partita all'Allara, risolta da Lollo De Silvestri allo scadere. È vero, ricordo. Questa è, con altri piccoli cambi, ad esempio Braccetto ci gioca a Bissek, ma Braccetto in tutti i sensi, nel senso che Bissek c'ha questa roba di usare il braccetto quando fa il braccetto. Fare quella faccia tu, non fare così, ho capito, ma l'avete comprato voi. Terzo fallo di mano da rigore per Bissek da quando è all'Inter e rimette in pareggio con il rigore di Orsolini la partita. Importante chiudere il primo tempo in pareggio, comunque... ovviamente più passava il tempo, più le possibilità magari dell'Inter, anche con la possibilità di andare in contropiede e poter colpire la squadra, invece si riesce a riportare il pareggio prima del tè. Prima del tè, anche perché Chiffi cerca di metterci più tempo possibile per dare questo rigore. Il rigore non lo puoi non dare mai per nessun motivo ed è frutto di un movimento complicatissimo con cui Bissek veramente fa di tutto per prenderla con le mani. Arriva, fa il movimento in ritardo nell'uno contro uno, dalle spalle al marcatore, non ha nessun controllo degli arti superiori, zero, sembra, zero. Sembra una di quelle illustrazioni con i regaz che ballano lo ska. Sì, cioè quell'estetica così in levare, ska two tone, quell'immaginario là, c'ha proprio le mani in quel modo. E Bissek a me viene giustamente sacramentato da tutti i tifosi nerazzurri in Italia e nel mondo, forse. In realtà io credo che lui abbia bisogno di un centrale esperto che gli faccia da chioccia per riportarlo due passi indietro e ripartire dai fondamentali. Bissek ha una grande esuberanza, una fisicità prorompente, è un colosso, però non può fare questi errori di posizionamento e proprio di idea di movimento difensivo, perché non è che sbaglia il movimento, lo pensa proprio già sbagliato. Ma lo pensa male, sì, può essere che sia questo il tema. Poi un secondo tempo comunque, quindi si finisce, si va sul pareggio al primo tempo, un secondo tempo in cui prima del tè c'è l'infortunio da Bernardeschi. Allora, questa è affascinante, io vorrei una statistica al manacco della Serie A, chissà se Giuseppe Pastore o Eddie Anselmi possono aiutarci su questo, non mi viene in mente nel calcio contemporaneo che io ho visto e sentito da quando sono senziente, nessuna squadra con due clavicole in un anno. Vero, non ha senso sta roba. Casca male su un contrasto di gioco che poi non viene neanche ravvisato come fallo da Chiffi. Federico Bernardeschi casca sul gomito e lo spostamento conseguente gli fa sbragare la clavicola anche a lui. Peccato, perché avevamo detto stava entrando in forma, l'avevamo visto pimpante dal punto di vista fisico, aveva iniziato anche a segnare, a entrare nel tabellino, quindi era in un periodo positivo. Ovviamente questo lo terrà fuori almeno un mese e mezzo, più o meno questo è i termini, insomma. Vabbè, c'è la sosta, c'è il Natale, insomma, non ce ne accorgiamo neanche. Vabbè, c'è un calendario tremendo, perché in realtà abbiamo un sacco di partite, la clavicola non si ingessa, abbiamo già fatto il focus clavicola con Remo Freuder, visto che... Che dovrebbe però tornare. Sì, dovrebbe tornare. Cioè, che non puoi avere due infortunati clavicola contemporanei. Sì, la scienza, cioè, non può spiegare tutto, però anche così... Appena si è infortunato Bernardeschi, Freud ha detto, ma sai che sto meglio, forse posso riprendere a giocare. E quindi può essere che venga convocato anche contro il Sassuolo, che è la prossima partita del Bologna. Sì, sì, verosimile. Bologna che ovviamente, come Inter, Milan e Napoli, non ha giocato la partita di campionato. Il campionato si è giocato con le rimanenti, diciamo così, con quelle che sono rimaste. Questa sarà tema di top 5. Per fortuna 5 partite ci sono state. Sì, anche un paio di cose interessanti. Con alcune cose interessanti. Secondo tempo, diciamo così, si gioca, nessuno... È un pareggio, è il risultato giusto, secondo me. Sì, sì, sì, sì. Alla fine dei 90. Si vede avrei picchiato Fabian. C'è stata una discussione con Fio. Fio dice che quella è un'occasione dove è bravo Martinez. Io dico che lì è bravo Martinez, ma anche è vero che pretendo dalla mia squadra, se fosse il tifoso del Bologna, se c'è un giocatore all'interno dell'area, quasi l'area piccola, tu là il portiere lo devi uccidere. Sì, in realtà. All'interno dell'area piccola io non voglio sapere un cazzo, devi segnare. Non esiste che è bravo il portiere, ha cercato il giro, là devi segnare. Sono abbastanza d'accordo con Simone. Intanto al 333 180 94 94, ricordiamo, arrivano alcuni messaggi. Se non c'era Bissek, finiva 2-0 per l'Inter. Mimmo. Allora, caro venga. Mimmo, mi sembra un po' esagerato questa lettura mi sembra un po' esagerato. È contento il nostro regista, ma insomma mi sembra un po' esagerato. La partita, abbiamo detto prima, il pareggio era il risultato più giusto, no? Anche perché questa cosa di buttare la croce addosso a Bissek, anche nella rovesciata di Orsolini dell'anno scorso allo scadere, l'assi, cioè, di testa, cioè, sì, ma lì c'è una serie di catastrofi difensive, no, ma lì in corso. È Di Marco che fa la vaccata. Cioè, lì è Di Marco che si lascia andare Orsolini a 2 metri di Isla, prende tutto il tempo di coordinarsi. Invece era solo. Dai. Gli lasci una quantità di spazio, sì, che è troppa anche a basket. Spazio, cioè, tempo, perché noi tendiamo sempre molto spesso a dividere due cose quando in realtà sono un unico elemento, lo spazio-tempo. Di dai, su, non si buttano nel crocetto, anche perché è molto giovane il ragazzo, poi Bissek. Sì, sicuramente ha possibilità interessanti e anche altre caratteristiche importanti. Un altro messaggio: il Bologna è sotto pressione per 70 minuti, non si vedeva da un po'. Beh, adesso questo mi sembra... Ha giocato con l'Inter, eh? Cioè, non è che ha giocato... No, comunque... Questo ci serve anche per tornare alla cronaca della partita. Sotto pressione, ma fino a un certo punto, perché le letture difensive del reparto arretrato del Bologna sono sempre quelle giuste, e lo conferma suo malgrado anche il VAR, che interviene per mettere una pezza, perché dove Chiffi vede un calcio di rigore c'è di fatto un fallo in attacco. Pensate com'era, ecco, la situazione. Ok. Ah, ma avevo dimenticato, è vero. Episodio molto interessante. Perché e uno poi dice, quando si critica il VAR, si deve anche capire che se non ci fosse il VAR, quello lì sarebbe stato rigore. Cioè, un fallo in attacco era trasformato in un gol. Non si critica il VAR in quanto VAR, si critica il VAR per come lo utilizziamo. Certo. Per le tempistiche, è diventato la scusante per agganciare discorsi che nella partita non c'entrano nulla. Sennò il VAR in sé è una buona cosa, insomma, è un buon attrezzo. Allora, l'episodio è Bonny che fa una partita... Bonica aveva preso a schiaffe, lui che tira il rigore in quella maniera lì. Sì, allora, sì. E torniamo al discorso. Infatti fino a quel momento ha fatto una grande partita, Bonny viene sempre cercato, è riferimento offensivo. Che butti in eccesso se poi fai quella porcata, il discorso è sempre quello. Non puoi presentarti sul dischetto in una semifinale di Coppa, anche se magari di meno... Cioè, regista, tu che dici? Cioè, ti puoi presentare sul dischetto in quella maniera lì? Cioè, con una flemma, con una cosa devi ricordare il rigore che ha tirato. Oh. Il rigore nella serie di penalty che finirà, è uno spoiler, ma tanto lo sapevate già, chiuderanno l'incontro, è frutto del rigore che voleva tirare a partita in corso, che viene giustamente rivisto e revocato dal VAR. Bonny viene sempre cercato, una palla in profondità, lui e Eggem arrivano appaiati. Chi arriva prima sul pallone, in teoria ci sarebbe arrivato prima Bonny se avesse deciso di prendere il pallone e non il piede del difendente. Esatto. Questo è fallo in attacco lineare. Un altro messaggio: buongiorno da Giuseppe, ma voi che siete informati, la partita si vede da qualche parte in chiaro? su Italia 1. Sì, semplice su Italia 1. Attenzione, perché avevo letto qualcosa a riguardo tipo ieri su qualche social, non mi ricordo quale, e che c'era questa cosa che non si riusciva a capire dove sarebbe stata trasmessa la partita, perché in realtà loro aspettavano appunto almeno una delle due milanesi presenti, sarebbero andati sicuramente in chiaro su Canale 5. Invece adesso non si sa. Ah, non è ancora ufficiale? Ieri perlomeno non era ancora molto chiara la situazione. In Italia si vedrà esattamente come ce lo aspettavamo su Italia 1. In altri paesi del mondo è affascinante questo tema. Ieri lo stavo leggendo, hai capito? Giuseppe, dici che paese sei, così ti diciamo che televisione. Se sei qua intorno, Italia 1. Se sei in Italia, Italia 1. Poi un altro messaggio dice: rigore non dato a Bonni uguale a quello di Di Lorenzo assegnato in Napoli Inter. Simile. Se lo ricorda. Metti pure simile per dinamica. In realtà quello di Lorenzo assomiglia più, quello dato al Napoli assomiglia di più a un fallo, perché non arrivano appaiati paralleli sullo stesso binario come nel caso di Bologna-Inter, ma hanno un angolo d'attacco per cui il contatto sembra più evidente, più marcato e più sfavorevole al giocatore in maglia azzurra. Vabbè, ma parliamo di stasera. Finiamo i rigori. Ci sono già carico. Un clinic su come si tirano i rigori. C'è una barzelletta con un carabiniere e un pesce rosso che non racconteremo, in cui a un certo punto si racconta una dinamica pavloviana, cioè vedi fare una cosa e la rifai esattamente uguale. È molto bella in questa serie di rigori che chi tu, è vero, è andata così, 5 rigori tira dopo un errore tira male come quello che ha tirato subito prima. È clamoroso, sì. È stata clamorosa. E tra l'altro vabbè, si parte subito col miglior rigorista dell'Inter, che è Lautaro Martinez, che ovviamente fa gol, e subito dopo gol uguale anche in questo caso a Ferguson. Lewis, mi raccomando, mentalizza Lewis. Questo è importante, può darti quella, è quello che manca, diciamo così, in questo Bologna rispetto a tutti quello che stanno, come stanno giocando i giocatori, che stanno dando un po' di più di quello che, diciamo, l'unico che sta un po' sotto media. Vabbè, vorrei dire che verrà fuori quando gli altri, quando gli altri scenderanno. La speranza è quella lì, ovviamente. E poi arriva Bastoni dopo Ferguson, e lì è già il primo errore abbastanza chiaro, con Ravaglia, che comunque ha già parato rigori, se non sbaglio non fu all'esordio all'Inter, il suo esordio era stato proprio segnato da un rigore parato all'Inter, se non vado errato. Bastoni, Moro lo sbaglia più o meno come Bastoni, uguale, sì. Barella un tiro, Barella in Oman, Barella tira e cambia nazione, la palla cambia nazione. Juan Miranda decide di fare altrettanto. Lo sbaglia come Barella, più perché, o meno. Cioè 10 rigori identici. Perché c'era una ragazza con molto velo, ma gli occhi bellissimi, a cui lui voleva regalare il pallone, ed era al secondo anello. Decide di spedirla lì, esattamente lì. Poi c'è Bonni di cui avevamo parlato. Poi c'è Bonni che tira un rigore. Tira un rigore inspiegabile. Io, allora, a me i rigori non sono una cosa che mi fa stare particolarmente bene in generale. Cioè, non lo so, c'ho sempre un certo discomfort. Ma non si tirano rigore. Una cosa che dico sempre a quando devo motivare un rigorista è ok, il portiere è quello lì, la porta è grande in quel modo, te, l'importante è che prendi dentro la porta. Se la prende il portiere è perché è bravo lui, se prende un legno è sfiga, se va fuori sei stronzo. Bonni tira dentro la porta effettivamente, ma è un passaggio a 8 metri, una roba, ma neanche a 11 metri, a 8, cioè proprio la palla esaurisce la sua spinta. Poi arriverò De Vrij che segna, e l'ultimo rigore è di Ciro Immobile, giocatore che rigorissimo, diciamo, ha tirato rigorissimo, posso dire, rigore, la metto lì scaldabagno, quello proprio scaldabagno, sì, proprio scaldabagno, il Pantheon degli scaldabagni è quello di Ciro Immobile. È molto bello, è tirato molto bene proprio dal punto di vista tecnico, quello di Rowe, che sembra uno di quelli che cioè, sembra un po' picchiettello lui ogni tanto, cioè il suo modo di incasinarsi, complicarsi la vita, invece dal dischetto ha una grande freddezza che non gli attribuivo. Bene, e quindi insomma finisce così, grande vittoria. E a questo punto ci buttiamo sulla partita di domani, perché vedo Simone già pronto. Molto interessato, perché il nostro amico regista qua mi ha appena portato un giornale di un colore orrendo, va bene, ok. Che parla del Torino. Proprio brutta brutta. Però vedo una cosa molto, ma molto interessante. Cioè, questo Bologna che dovrebbe schierarsi con un 4-2-3-1 e davanti, in poche parole, l'italiano schiera tutto l'arsenale. Cioè, Orsolini a destra, Cambiaghi a sinistra, davanti, proprio davanti a tutti Castro, dietro Castro Odegaard. Cioè, sono cose che mi piacciono. Ok, adesso io chiamerò il mio amico Massi Bartolini, gli dirò: guarda, ascolta, non si può fare, cioè, adesso vediamo, perché sembra molto interessante. Anche Giuseppe ci conferma che alle 20 su Italia 1 ha guardato, anche lui non si fidava di noi probabilmente. Va bene, non le 20 orario nemico del popolo, assolutamente, diciamolo subito. Però là sono le 22, ecco, che è quello peggio. Il cazzo di problema, che ci stiamo a fare? Perché alle 22 là? Perché devono giocare alle 22? Però raga, questi 4 davanti tutti insieme a me piace parecchio. È quello che è, dovrebbe essere, molto... ovviamente si torna a Napoli-Bologna dopo l'ultima partita, Bologna-Napoli in questo caso, in cui Bologna aveva strapazzato magari no, però comunque vinto nettamente, diciamo così, col Napoli, aveva creato quel distacco che poi ha portato Conte a fare le sue uscite, a pompare malattia. Mannaggia voi, avete fatto solo bene con quella di vittoria. Da lì è cambiata un po' la stagione del Napoli. Intanto altri messaggi: oggi è la Supercoppa, si sente il clima della finale e della semifinale, in questo caso un Inter sperimentale, ai rigori ci dovevano essere Ciala e Di Marco, è un regalo di Chivu, buone feste. Il nostro rigorista designato era fuori dal campo anche lui per sostituzione. Esatto, quindi insomma sperimentale. È una partita in cui nel piano gara di nessuno dei due allenatori probabilmente c'era quella di andare ai rigori. No, secondo me proprio no. E quindi è capitato, non hanno fatto i cambi pensando, diciamo, ai rigoristi, ma hanno fatto cambi pensando a vincere la partita. I due e mezzo dovrebbero essere Pobeg e Ferguson. Mi piace la formazione di Italia. Ma non sarà questa sicuro. Dici di no? È quella della Gazzetta, figura di non so, capito, però adesso cominciamo a dare un'occhiata. Figura se la formazione sarà questa. Dov'è Vergara? Io non capisco, in panchina, raga, prendetelo. Vergara dovrebbe andare in prestito. Si sia aperto al prestito. Per farlo giocare, capito, no, che ragazzi, ha bisogno di giocare, raga, spacchiamo. È un giocatore appunto importante, potrebbe essere il sostituto di Fabiani, per dire, ma magari fosse vediamo. Ragazzi, sulla linea, sul rapporto del Napoli con i giovani talenti, già il caso Caprile ci racconta che lì c'è un po' di casino. Un po' tutto, allarghiamo il discorso, un po' proprio tutta la serie A. Bisogna anche stabilire fino a quanti anni è giovanissimo un calciatore. Perché Vergara non ne ha più 17. 22 anni, va per i 23, cioè è adesso che. E ancora non ha giocato. Non l'hanno ancora fatto giocare da nessuna parte. È un po' un problema, nel senso. Ha vinto il titolo di MVP della stagione passata per la Reggiana. Giusto, vero. Ha giocato bene in Serie B. Ha giocato già pure benissimo pure in Serie C, era fortissimo in primavera. Gli manca testare la Serie A. Probabilmente per lui un prestito potrebbe essere la soluzione ideale in questi sei mesi. C'è uno squadra che hanno problema. Prendetelo, mi raccomando. Lo prendiamo. Per la squadra della Garrincia del Lobo. Bello. Parlo con l'allenatore della squadra. Coach. Forse qualche sirena di mercato ci sarà anche nella top 5. Potrebbe essere. Perché adesso, sai, in gennaio la gente cerca, briga, brilla, sai mai che qualcosa si muove. Fanno pure un sacco di cazzate a gennaio, di solito. Sì, lo fanno. Vediamo. Vedremo, lo racconteremo ovviamente. Ci fermiamo un secondo e poi ci buttiamo dentro alla top 5 di questa settimana. Rientriamo in diretta, stai zitto che dobbiamo parlare, c'è un microfono, una cuffia, la radio, sai cos'è? Non mi ero accorto. Le riunioni di redazione sono permanenti e portano i posti dove è. Vabbè raga, però scusate, per Sacchi potevo essere più forte di Cacà, sono parole di Fabio Simplici. Va bene tutto che è Natale, ma e sotto c'è scritto Forza Torino, perché è sempre in quel giornale lì, rosa. Va bene, ma lo mettiamo da parte perché ci buttiamo dentro alla top 5 di giornata. 6 le partite giocate, 6, una finta 0-0. E quindi abbiamo già fatto la top 5. Già pronta la top 5, è stata più semplice del previsto. Volevo solo ricordare una cosa. Mi sembra che Vincenzo Italiano sia arrivata alla quinta finale in 3 stagioni. Lo fa, una cosa che fa, 4 stagioni, 5 finali. È uno che insomma. Però siamo dentro. Non è ancora arrivato Babbo Natale, esatto. C'è ancora tempo, dico, per aumentare eventualmente alcune situazioni. C'è la Coppa Italia da difendere, c'è la Coppa UEFA. Tanto siamo così. Vediamo. Con allenando Fiorentina e Bologna. Questo è anche solo per collegarci al fatto che per la prima volta c'è la Fiorentina. Incredibile. In top 5. A Natale c'è la Fiorentina. Ragazzi. È arrivata la prima vittoria sotto l'albero. I tifosi della Fiorentina avevano chiesto la prima vittoria in campionato ed è arrivata roboante, è arrivata con un risultato largo, rotondo, 5-1, quelli dicevano che si sono sbloccati. È vero che c'è stato qualcosa di particolare. E infatti in top 5 per festeggiare la prima vittoria della Fiorentina in questa stagione di Serie A non c'è un giocatore della Fiorentina, no. C'è un portiere che dentro di sé contiene l'onomatopea di quando uno esce un po' alla rinfusa e tira su quello che trova. Infatti, come dicono a Roma, Ndokoye Okoye in rosso all'ottavo minuto, una roba del genere. Sì, all'ottavo minuto. Presto. E da lì insomma la strada è spianata. L'Udinese, oltre ad essere la squadra più pronunciata, più con gli accenti, più che insiste a vestirsi di grigio su un campo da calcio, è una cosa veramente orrenda. Su un campo in cattive condizioni, tra l'altro. Esatto. Su un campo in cattive, per essere ancora più in uno stadio di pessime condizioni. Sembrava tutto un po' una via di mezzo. Però arriva questa rotonda vittoria, è la prima vittoria, non sposta la Fiorentina dall'ultimo posto in classifica, perché era ne deve mangiare, doveva ancora mangiare, insomma, iniziata, però raggiunge i punti fatti in Conference League. Sì, cioè, 9 punti. Dove ha perso pure. Con la sconfitta con Losanna. Prendendo un gol incredibile, ragazzi. Guardate il gol che ha preso la Viola in Conference, è clamoroso. Ma vabbè. Ma perché giocano 6 partite in Conference? Perché sono matti. Cioè, per così gli rimaneva. Cioè. Parliamo di una competizione il cui capocannoniere nella prima edizione è stato Cyriel Dessert. Quello lì è una partita. Che è costato la Serie B la Cremonese. Esatto, è un fantacalcio. È una lega davvero, davvero esotica. Okoye, personaggio particolare, ha anche un rapporto curioso con la disciplinare della Lega Serie A, perché lui ha avuto una, ricordiamolo, 3 mesi di squalifica per aver scommesso su proprie ammonizioni. Ok, parliamo di questo, è uno che di lavoro gioca a calcio in Serie A. Esatto, questo. Ok, è che ieri con uscita a valanga su Ken, lanciato a rete, lanciato così come viene, diciamo, però comunque lanciato a rete, decide di uscire in quel modo. Scellerato. Abbastanza scellerato. Era difficile non fischiare niente, perché comunque c'è sia il contatto che il tocco di mano su un rimpallo. Imbarazzo questo. Della scelta per l'arbitro. Sì, non tanto fisco, però poi scelgo cosa. Poi vedo, però cosa, sì, insomma, comunque è difficile commentare la decisione dell'arbitro, ma ancora prima l'uscita di Okoye. Lascia i suoi in 10. Che devi fare? Ti fai prendere a pallate, questo è quello che io anche il Genoa ha giocato in 10 per tutta la partita, ma non si è fatto prendere assolutamente pallate. Assolutamente no. Però insomma, diciamo che tutti i pianeti si allineano sopra al Franchi. La Fiorentina ha spazio per fare quello che riesce a fare. In quello che riesce a fare c'è il primo gol in maglia viola di Ndur, una doppietta di Ken con normale. È un gol bellissimo di Gudmundsson, però. Un gol molto bello di Gudmundsson. Gudmundsson forse il tra i big, diciamo, lui ed Adinzeko, quelli più in aria di treno dei desideri, nei miei pensieri all'incontrario va, sembravano già tra quelli raccontati pronti a lasciare Firenze. Vediamo. Gudmundsson è arrivato dopo una grande stagione al Genoa, a Firenze non ha fatto, poi ha avuto problemi anche problema serio, processi e cose del genere, quindi sicuramente non era concentrato, però rimane uno dei punti interrogativi e potrebbe la Fiorentina essere una di quelle squadre che potrebbe muovere il mercato di gennaio, nel senso che si è parlato di uno spogliatoio particolarmente. Dovrebbe arrivare Paratici poi? Ho detto così? Sì, vediamo. Paratici potrebbe essere il direttore sportivo perché hanno mandato via Pradè e quindi la situazione potrebbe anche cambiare da questo punto di vista, però è ovvio che la squadra ha qualità che non ci stanno in fondo alla classifica, quindi ancora qualche speranza. Sappiamo che la storia nessuno l'ha riuscito a fare, però forse nessuna squadra forte come la Fiorentina rispetto alle altre contendenti si era trovata in quella situazione. Anche se sono abbastanza vecchio per ricordarmi una Fiorentina fortissima che retrocesse. È vero, anche sul campo, sul campo 92-93. Esatto, anche quella era veramente una forte. Forte. Certo. Però è ovvio che insomma sono attualmente 5 punti, ne ha 9, ha già dimezzato lo svantaggio, diciamo così, rispetto alla scorsa settimana. Quindi secondo me la fattibilità c'è ancora. Ha una rosa superiore sia al Pisa che al Verona, insomma, sono al Parma che... forse che al Genoa, anche se il Genoa è più sfortunato che altro. È vero, però ne parleremo prima. Una piccola suggestione per l'ambiente viola, che potrebbe riorganizzarsi sfruttando dell'expertise che aveva già in casa, un suggerimento che ci viene dalla Serie B per l'appunto. Parliamo di una società che tra l'altro ha anche ottimi rapporti con la Fiorentina anche dal punto di vista della tifoseria, perché è il Catanzaro, che sta facendo una bella B con molto prodotto del vivaio viola. Sì, soprattutto il coach, sono molto contento per Alberto Aquilani, che abbiamo avuto il piacere di seguire con la Fiorentina Primavera, vincendo tipo 2 o 3 Coppa Italia consecutive, qualcosa del genere. Aveva sempre mostrato del gran... era la Fiorentina di Caiodè, di Toci centravanti, di Tommaso Berti che adesso sta brillando a Cesena, dei vari, d'Alessandro che credo che sia in prestito a Catanzaro, e di un altro giocatore che adesso mi sfugge il nome, a centrocampo sempre del Catanzaro. Ci sono due o tre, c'era Bianco che era stato a Monza, adesso mi sa che è in Grecia, cioè era una insomma grossa qualità. Sono molto contento di questo Catanzaro che dovrebbe essere quinto o sesto, vince a Bari, mi sembra, sì, domenica ha vinto già a Bari. E c'è Alfagio Cissé, che è la giovane stella che arriva invece la prima primavera. Cioè, è un laboratorio giallo-rosso-viola, che comincia, insomma, a mostrare, insomma, un po' di frutti. Sono molto contento della crescita del reparto giovanile toscano, diciamo. Bene, potrebbe essere, insomma, una parte su cui rifondare la situazione. Sì, assolutamente sì. È ovvio che credo si muoverà qualcuno, anche appunto si parlava di uno spogliatoio particolarmente effervescente, diciamo così, quello di Firenze, quindi mi sa che qualcuno se ne andrà e qualcuno arriverà. E hanno appunto, oltre che la qualità diciamo tecnica della squadra, anche potenzialità economiche molto maggiori delle altre squadre lì presenti, quindi insomma le possibilità ci sono. Dovrà comunque farlo per la prima volta nella storia, quindi non così facile. Allora, siccome abbiamo detto potenzialità economiche, parliamo della squadra protagonista dei pensieri, dei sogni un po' di tutti, cioè di quella squadra che quando uno compra un quotidiano stampato sulla carta non puoi non avere 10 pagine che ne parla. Il Torino. Il grande Torino di Urbano Cairo, che salutiamo sempre. E ha trovato un suo leader totale in un giocatore di grande qualità che noi già conoscevamo da un po', che però ultimamente se la sente proprio calda. È bello avere anche un rigorista così in squadra, perché è un ragazzo che è molto affidabile e quando c'è da fare il suo lo fa sempre. Adesso qualche partita che è in stato di grazia, parliamo di Vlasic, che porta i 3 punti ai Granata. Ma questo è uno che ha sempre segnato, è quel Vlasic che stava a Padova nelle serie minori, che aveva fatto quei gran campionati, credo che potrebbe essere lui, se non mi tradisce, un altro Vlasic. Beh, vabbè, finisce in Nietzsche il cognome, non ci sono cose, sappiamo che il prodotto è buono. West Ham, qui ci ricolleghiamo al maglione di Fio, e CSKA di Mosca prima del Torino per Vlasic. Sesca, giusto. È arrivato al quarto gol per quanto riguarda il Torino, vince a Sassuolo che ha fatto un ottimo campionato, in particolare in casa, no? Ha ben giocato in casa, quindi vittoria importante. Il Torino è 13esimo, quindi nella pancia della classifica. 13 come le pagine sulla Gazzetta ogni volta che gioca. E dal dischetto Vlasic, rigore causato da Doig, che a terra Simeone, e nel Sassuolo protagonista anche del mercato di gennaio Muharemovic, già accostato molto forte all'Inter. All'Inter, che anche il Bologna avevo visto che aveva fatto un sondaggio. Prodotto dalla Juve, se non ricordo male, difensore dietro, niente male. Dottore, sì, ex Juve, nel settore giovanile della Juve, il Bologna probabilmente un difensore centrale potrebbe doverlo cercare, insomma mi sembra che sia uno dei ruoli in cui c'è più bisogno di andare sul mercato, se si troverà la soluzione, un giovane come lui potrebbe essere, però appunto anche l'Inter cerca un difensore centrale, credo che delle due finisca là piuttosto che qua. E che dire, classifica che in questo momento mette solo un punto tra Sassuolo e Torino, il Sassuolo chiude la colonna sinistra della classifica e il Torino è un punto dietro al 13° posto. Sì, in questo momento il Torino diciamo ha 4 punti di vantaggio dal Lecce, quindi è abbastanza fuori la zona salvezza, diciamo questa vittoria lo porta un po' più in alto ed è accodato diciamo alla parte della classifica che lotterà per una posizione europea, ovviamente partendo da 13° devi arrivare in su, devi superarne ancora parecchie, però tendenzialmente il 25 punti del Bologna in questo momento sarebbero quelli che, salvo la Coppa Italia e cose del genere, danno l'Europa. Il Torino è comunque a 5 punti, non così male come i tifosi del Torino raccontano la squadra. Beh, però quando si tratta di cantare Urbano Cairo devi vendere vattene, ma così quello, lirici, quello lo fanno e lo faranno ancora. Continuiamo con la top 5, l'abbiamo prima citato, lo risegnaliamo, Daniele De Rossi, perché merita due paroline. Allora, nella giornata di Serie A in cui i portieri decidono di mettersi in mostra nel modo più strano che hanno a disposizione, cioè uscendo lontanissimo dalla porta e facendo delle cose strane per farsi cacciare, Leali, uno dei portieri più esperti di quel bracket di classifica, decide di uscire a valanga sul giocatore dell'Atalanta lanciato a rete, dimenticandosi che egli è Daniel Maldini e che quindi non avrebbe mai segnato. È vero, sì, poteva stare più tranquillo, è il terzo minuto era. Al di là che non ho capito perché Maldini cerca il dribbling quando aveva tutto lo spazio e tempo per cercare un pallonetto nemmeno difficilissimo, cioè dritto, dovevi semplicemente alzare, cioè, era 1-0. Because Daniel Maldini. Daniel Maldini è titolare, gioca nell'Atalanta e Vergara, ricordiamo, fa panchina. A Napoli questo funziona così in Italia. La partita li cambia perché comunque subito i ragazzi in bellissima maglia rosso-blu devono rivedere il piano gara. De Rossi toglie Aaron Martin, esterno tutta fascia, per trovare un nuovo assetto e non rinunciare al portiere, perché è poco elegante giocare senza portiere dal terzo minuto, è un po' poco elegante. Sì, poi la maglietta è molto elegante, però giocare senza portiere non lo è. Voglio dire, la combo robe di K a Genoa quest'anno ci saranno delle soddisfazioni forse enormi. Non hanno sbagliato un kit, anche i celebrativi, uno più bello dell'altro, bravi. De Genoa, se fossi stato Danielino, se perdo una partita che ho giocato interamente in 10 al 94esimo su una super sminchiata del mio portiere, un po' mi sarei incazzato. È perché il Genoa gioca tanto a pallone e nella prima parte del secondo tempo produce due palle gol clamorose, c'è un palo di Vitigna e un colpo di testa appena fuori di Colombo. È un po' la cifra stilistica del Genoa di quest'anno. Il reparto offensivo non è assolutamente all'altezza né dell'idea di gioco né della prestazione degli altri reparti, cioè non prendono in porta, è incredibile. E poi sì, sull'ultimo possesso, calcio d'angolo, insomma arriva fin lì molto ordinato, bella gara, fa anche una parata su Ederson, centrale sotto la traversa con un'apertura a 160 gradi di braccia poderosa. Ecco, lì fa una cosa di inesperienza. Hai 8 giocatori in area piccola, la palla arriverà lì. È verosimile che chiunque la tocchi non avrà la possibilità di imprimergli una forza, un momento, un'inerzia, una direzione particolarmente desiderata. Sarà un tocco casuale, rimani tra i pali e fatti i cazzi tuoi. Decide di fare 2 passi e mezzo fuori, quanto basta per farsi scavalcare dal tocco di Ian, ed è una sconfitta che brucia molto. No, ma cioè è una veramente in quella maniera lì, dopo che tu hai giocato da Dio, per tu, cioè, sempre in totale inferiorità numerica, Non so come abbia fatto a impazzire Rossi, però da così, Genoa è veramente sfortunato quest'anno. Veramente sfortunato. Stavo calcolando negli ultimi sei anni che gioca, i dati di Sommariva degli ultimi sei anni di gioco, ha giocato in totale 16 partite in sei anni. È proprio quell'eterno vice che poi dimostra di avere non proprio le essere così pronto, no? A giocare così poche partite. Se tu vai a vedere, negli ultimi tre anni ha giocato tre partite, una l'anno ne gioca. È ovvio che insomma ti trovi poi in situazioni diverse. De Rossi però comunque mi sembra che sia veramente non ne sta sbagliando una dal punto di vista tattico col Genoa. L'ha ripreso, l'ha rilanciato, gli ha ridato spirito e anche in comunicazione con l'esterno. Lui è sempre stato forte nella comunicazione, però a volte non ha niente di banale, sempre interessante quando apre bocca, uno dei rarissimi, veramente rarissimi esempi. Sì, secondo me all'inizio della carriera, poi soprattutto quando era giocatore, lanciava più fiammate a volte senza era giovane. Adesso mi sembra cresciuto proprio anche di maturità, di conoscenza anche. Bello, coraggioso anche il suo dichiarare: questa prestazione è il biglietto da visita di questo gruppo, vorrei che questa partita rimanesse e ci ricordasse che noi siamo questi qua. È tanta roba, perché comunque alla fine la perdi al 94esimo, ma sulla prestazione non c'è niente da dire. In questo momento il Genoa è la prima delle salve, e vedendo come giocano a calcio è strano, ma sono lì sotto a 14 punti. Mi ricorda tanto un'altra squadra di rosso-blu vestito robe di K, che crea e poi non cava un cazzo di rogno. Serie C, Serie C, girone B, secondo me. Non sapevo fosse robe di K, ma se non segna so che è la San Benedettese. Tra l'altro Genoa salva, però il Verona ha 15 partite giocate, c'ha una partita giocata in meno e due punti in meno, quindi non è che possa dormire sonni tranquilli il Genoa. No, assolutamente no. Anche il Parma, che ha gli stessi punti, ha una partita in meno. Lì sotto c'è ancora un bel casino. L'Atalanta raccoglie tre punti in un modo abbastanza insperato, va a 22, prestazione su cui Palladino dovrebbe ragionare, perché non hanno giocato una bella partita mai. Non è ancora l'Atalanta che conoscevamo, è vero che ricordiamo è l'Atalanta post Juric, quindi comunque qualcosa le macerie, però bisogna ritirarle su, questo è sicuro. Comunque l'Atalanta sta risalendo la classifica, ora è nona, quindi insomma sta riprendendo quelle posizioni che negli ultimi anni abbiamo di solito visto esserci occupare. Esatto. E abbiamo parlato di una partita che non è finita in pareggio per un'azione dell'ultimo minuto, adesso parliamo di un pareggio spettacolare spalmato in un'ora e mezza di grande intensità, una bella partita da vedere, piacevole, gradevole, con anche dei gol di pregevolissima fattura. Parliamo di Cagliari-Pisa. Cagliari-Pisa, sì. Partita davvero, ha detto tutto Fio, bene, benissimo. Ma comunque il Cagliari, ti devo dire che quest'anno non è mai da vedere. È vero, confermo. C'ha dei momenti di calcio, anche e soprattutto in alcuni interpreti, davvero molto gradevoli, bravi loro. E segnaliamo il primo gol in Italia di Semi Kiljoski, l'ho pronunciato bene, si pronuncia così, che mi ha ricordato tantissimo un Higuain Prime, nel modo proprio in cui libera il destro e poi lo scarica senza contare fino a due. Quel tipo di gol proprio da centravanti che se la sente, niente male. Sei ragazzo giovane del 2005, 20 anni, in prestito dal Beşiktaş. Kılıçsoy, turco, in prestito dal Beşiktaş. Bravo il Cagliari che si è preso questo giovane interessante. Complimenti anche a Pisacane, perché insomma anche lui è esordiente, se non sbaglio, in Serie A. Mi sembra che la stia gestendo bene. Molto bello anche l'altro gol del Cagliari, con una sventagliata di Zappa, che Foloruncio decide di aggredire con tutta la sua prepotenza fisica, bolla e si sfracella contro il palo, si fa anche male. E per il Pisa, dal dischetto Tramoni, e bello il gol di Moreo, che fa un movimento da calcio d'altri tempi, anche come una tocca, giusto la sfiora a palla piano piano, davvero un bel gol. Sì, sa un po' di America Latina o di calcio anni 80, vedi te. È una bella partita tra due squadre che comunque non hanno niente da perdere, tra virgolette, il neopromosso Pisa e il Cagliari Laboratorio, con appunto l'esordiente in panchina, hanno fatto quello che gli andava di fare, cioè giocare a pallone, e noi li ringraziamo per questo. Segniamo anche il primo gol in Serie A di Tramoni, Tramoni che è stato l'uomo della... l'uomo spettacolo in Serie B, posso dire, ha dato spettacolo in Serie B. Sono contento che comincia a confermarsi anche in Serie A, e soprattutto ricordiamo sempre Palestra Nazionale. Questo è Palestra Nazionale, perché Tramoni si segna sul rigore, però almeno mette quel segno sulla casella che potrebbe dargli un po' di lustro per la seconda parte di campionato. Nella prima parte ha un po' deluso, nel senso che comunque il salto, ovviamente la Serie B, l'anno scorso fece 13 gol nella cavalcata del Pisa per tornare in Serie A dopo tanto tempo. Può essere un uomo importante per il finale di stagione, perché insomma si lotterà fino all'ultimo, insomma, o proverà a lottare il Pisa di Gilardino. 11 punti del Pisa di Gilardino a più 2 sull'ultima, che ricordiamo alla Fiorentina, e sono 15 quelli del Cagliari, che però potrebbe farsi riprendere dal Verona, che ha una partita in meno, incasinando ulteriormente la già incasinata lotta salvezza. Sì, robe interessanti. Vediamo, chiudiamo questa top 5. Noi non volevamo avere questo punto in chiusura della top 5, ma non possiamo non dare uno spazio a Spalletti. Spalletti che, abbiamo detto, cotto con la nazionale, l'hanno insomma gli ha dato addirittura la panchina della Juve per premiare, alla fine probabilmente nella partita contro il Bologna, sempre voi, cazzo, siete sempre voi, non c'è niente nella partita col Bologna, ha capito la squadra, è riuscito a girare la squadra a sua diciamo immagine e somiglianza, e ha inserito un'altra vittoria importante contro la Roma, che aveva iniziato la stagione molto bene. Sono due vittorie pesantissime contro due avversari dirette per la classifica. Adesso non so fino a che punto la Juve si possa arrampicare in classifica, però è anche vero che si cominciano a vedere delle buone, devo essere onesto, delle gran belle trame offensive, soprattutto offensive davanti. Hanno recuperato Bremer, che è un'altra roba importante, molto molto importante per tutto l'impianto di gioco. E no, di Spalletti si segnala soprattutto un po' plateale, un po' come fa sempre Luca di Scorsoni, se deve sempre darti una lezione di vita, è quello che è antipatico di Spalletti, che deve sempre fare il maestro. Però la conferenza finale è molto importante. La conferenza post partita parla di un allenatore che soffre se vede la sua squadra galleggiare sempre in difesa, che non vuole vedere difendere troppo, che vuole sempre che i difensori anche cerchino di divertirsi proprio giocando a pallone, al di là della vittoria o meno. Fa tutto un discorso che è in totale antitesi rispetto a quello a cui il popolo juventino era abituato negli ultimi, diciamo, 5-6 anni, e questo credo sia la cosa più importante di tutte. A me fa impazzire che arriva un momento in cui la Juve gioca malissimo a pallone, poi guardi la classifica ed è incredibile che abbia così tanti punti. Qualunque cosa succeda dopo è un brodino, perché vengono qua, vincono, fanno una bella partita con la Roma, con anche degli accorgimenti tattici, come dicevi, con Seisao che smette di isolarsi e va da Brevilineo in mezzo al traffico a cercare l'1-2, infatti con segna. Ibis spesso si sono svegliati anche Openda e David, insomma, cominci qualcosa. No, David no. No, David no, no. Su David, no, David no, David non si è svegliato. Aveva segnato, cioè, la penultima partita, non domenica, dove ieri ha segnato Open Down, ma nell'ultima mi sembra che almeno uno l'aveva fatto. Non mi ricordo in quale delle due partite, ma l'ho visto. È stato annullato col Bologna. Ha fatto gol col Bologna, ma è stato annullato. Con David c'è quella storia molto, molto social, molto Instagram, in cui era stato, sembrava fosse stato escluso da una cena di squadra, poi hanno cominciato. Sei 15 anni? Sta pensando di 15 anni? Uguale. Ecco, lì devono ancora mangiare un sacco di pane. Vedremo adesso, a 5 partite relativamente facili. Un calendario vergognoso. Sì, in questo periodo veramente si inizia col Pisa, poi Lecce, Sassuolo, Cremonese e Cagliari in fila, tutto questo. Raga, immagino abbia incontrato prima quelle. La Juve incontra solo le piccole, due volte. Così gli fanno i campionati, i calendari così. I provinciali, ok? Adesso il Bologna è una realtà, ok, solida, seria, che si sta per giocare a finale stasera, quindi non vuoi più sentire discorso così, gnignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignign pubblicità. Terza parte di Caffè Paglia di quest'oggi, ancora messaggi giunti al 333 180 94 94, frizzanti oggi ragazzi, non scherziamo. A Bologna la Juve ha vinto avendo le occasioni migliori solo nel finale, con noi sbilanciati alla ricerca del pareggio. Nel primo tempo bella partita, ma hanno sofferto brutto. Se finiva 2-0 per noi non sarebbe stato un furto. Nel secondo abbiamo giocato 30 minuti in 10, buona con sta storia di cessare il pelato, se no cambio frequenza. Calma, per una volta che abbiamo parlato di Juve negli ultimi tipo 3 anni, una cosa del genere. Abbiamo anche detto noi che ci dispiaceva farlo, però l'evidenza è questa, adesso non vorrei dire. Comunque non succederà più, non succederà più. Marco Rizzo il pelato. Sì, stavo parlando di Marco Rizzo, probabilmente. Basta incensare Marco Rizzo, questo è un messaggio chiaro. Rizzo uno di allora, buttiamoci nel calcio internazionale con il secondo messaggio giunto, perché ci dice che il Bologna prende Coppola, ex Verona, ora al Brighton, difensore centrale. Bellissimo centrale, che è chiaramente le sirene e la solvibilità della Premier League hanno portato via dalla Serie A anzitempo. Bel giocatore, fece una grande stagione a Verona. Eh sì, era un giocatore interessante. La fece pure Casale, la grande stagione a Verona. Vabbè, così, detta così, è un po' un colpo basso. Con Juric in panchina. Pure, no, vabbè. No, allora c'è qualcosa che non va. Va bene, andiamo a vedere quello che è successo in giro per l'Europa. Una nota per i nostri amici studenti di scienze della comunicazione: nella bannerone testata del sito della Gazzetta, tra i campionati consigliati, quando segui il calcio estero, è comparsa la Saudi Pro League. Sì, non eravamo pronti a questa cosa, scusate. Oggi non parleremo di Saudi Pro League. Assolutamente no, non ne parleremo. Inizierei a parlare della Premier League, anche per scelta cuore verso Simone, dove c'è ancora l'Arsenal in vetta. Arsenal che resiste, vince 1-0 con l'Everton, continua quindi la sua cavalcata con il Manchester City, però che è sempre lì, 3-0 sul tuo West Ham, anzi sul West Ham del tuo maglione. Sì, una parola al volo su Liverpool, sulla città di Liverpool e la partita dell'Arsenal, che va a vincere con gol di Gyökeres sull'Everton. A un certo punto i tifosi ospiti cantano Feed the Scouser, che è un coro di discriminazione territoriale, diremo in Italia, basato sul prendere per il culo una carestia storica della fine del 1800 nella zona di Liverpool. Generico, la società dell'Everton, che è molto matura quando si tratta di fare queste cose, mette sullo schermone, toglie i nomi delle squadre, lascia solo minuto e risultato parziale e mette il banner di un'associazione fondata da tifosi dell'Everton e del Liverpool contro la povertà alimentare. Bravi. Live l'hanno fatto. Molto moderati, sì, allo stadio a partita in corso. Beh, questa insomma è una bella operazione, una bella risposta al appunto questo coro dei tifosi dell'Arsenal. Partita dominata dall'Arsenal, tra l'altro. Vabbè. Sì, questo è vero, la partita è sicuramente dominata. Stavo guardando proprio Coppola che ha giocato in Brighton Sunderland, quindi insomma però era da tanto che non giocava, in effetti ha giocato poco quest'anno al Brighton, 4 le presenze, proprio l'ultimo l'ha giocato, 21enne, ancora giovane, quindi insomma potrebbe essere una presa alla Sartori, no, nel senso sono i suoi colpi questi qua. Beh, quando lo riconosco, poi quando riconosco questa, no, a parte gli scherzi, Casale è un gran bell'innesto. Potrebbe essere un giocatore utile al progetto del Bologna. E vince anche il Liverpool, si sveglia un po' dal torpore, vince contro il Tottenham a Londra, diciamo così, a casa del Tottenham, e risale un po' in classifica. In questo momento è quinto, molto lontano, 10 punti lontano dall'Arsenal, si può giocare, diciamo così, la zona Champions League. È partito per la Coppa d'Africa senza lasciare tracce. Il Liverpool comunque fa una bella prestazione, Tottenham fa una roba matta da Tottenham, finiranno la partita in 9, così per la gioia dei tifosi dei Toffees, Simons si fa espellere in avvio di gara dal trentesimo e poi Romero somma di ammonizioni a fine partita. Gli Spurs, Tottenham Spurs, il Toffi è solo quello di Everton, credo. Sì, hai ragione, mi sono incasinato. Vabbè, ma questo lasciamo stare. In fondo alla classifica rimane la posizione maglia nera d'Europa, i Wolverhampton, che hanno due punti in 17 partite, quindi insomma un buon ruolo di marcia. Fanno peggio del Sunderland l'anno scorso, Southampton l'anno scorso, mamma mia, si potrebbero battere il record. 9 gol fatti, 37 subiti, non male. han perso 2-0 in casa dal Brentford anche questa settimana, insomma hanno fatto giornata, è andata insomma, non male il tabellino dei Wolverhampton. Volevi aggiungere qualcosa? La bella vittoria in casa dell'Aston Villa contro lo United. Morgan Rogers, due gol molto belli, ripescatevi. Attualmente i bookmaker danno favorita l'Aston Villa alla vittoria dell'Europa League, ad esempio, la squadra favorita. Con quello in panchina è facile. Sta crescendo, è terza, no? Il campionato proprio sotto il Manchester City a un punto, quindi tutto molto ancora giocabile, perché sono tre punti di distanza dal primo posto, per dire. Sì, la vetta è caldissima, poi sappiamo che l'Arsenal, quando si tratta di scrivere pagine di grande utopia, è sempre di pronto. Bisogna seguirla e testarla. Meno interessante, diciamo così, la classifica della Bundesliga, invece, che il Bayern è nettamente primo, 4-0 con l'Heidenheim, e tra l'altro perde anche l'RB Lipsia, che perde però con l'Everkusen, in una sfida comunque d'alta classifica. In questo momento al secondo posto c'è il Dortmund, che ha vinto il derby col Mönchengladbach, il Borussia Mönchengladbach, il derby dei Borussia, e in questo momento ha 9 punti di svantaggio dal Bayern. E questo è insomma il campionato abbastanza deciso. Cose interessanti invece avvengono nella Zweite Bundesliga. Stavamo dando un'occhiata a una stagione particolare di una squadra della Bundesliga. Mi è caduto l'occhio sulla stagione del Furz. Chi? Furz. Diciamo che c'ha. È una paese. Dov'è? Non so. Allo stadio. Comunque, lo stemma del Celtic. Esatto, o del Palatinaikos, lo so. Un bel trifoglio verde, un bello stadietto da 16.000 posti. Ora, un tifoso del Furz che l'ha viste tutte, casa e trasferta, ha visto in 17 partite 70 gol. Non è male, 5 gol di me, qualcosa. 17 partite, 26 gol fatti, 44 subiti, sono 70 gol in 17 partite. È penultima. Suggerisce una squadra propositiva, insomma, che cerca di giocare. 27 gol sono un po' di. È che 44 sono veramente tanti. C'è un problema di difensivo, è veramente importante, però tieni conto che quella che è in testa la classifica è lo Schalke 04, ha fatto 22 gol. Cioè la prima ne ha fatti meno. Ma ne ha subiti tipo 5. 10. 10. Sono cose che capitano, calcoli statistici strani. Anche l'ultima comunque ne ha fatti 24. Capito, quindi ultima e penultima hanno fatto più gol della prima. Però insomma hanno difese ovviamente diverse. In realtà è tutto ancora molto aperto. Hanno 15 punti il Furth e la Dinamo Dresda è a 13. Nome leggendario. Ed è a 13 punti, ultima in classifica. Poi il Fortuna Düsseldorf e il Magdeburg si giocano la salvezza della Zweite Bundesliga. Davanti Schalke e Elversberg. In questo momento salirebbero, mentre il Darmstadt andrebbe allo spareggio con la terz'ultima della Bundesliga. E dicevi, volevi aggiungere qualcosa? Elverberg, squadra rivelazione della Zwei totale. Sì, mai conosciuta, mai sentita. Comunque è il Greuther Fürth. Ci dice Luisa da Bellinzona, che segue sempre la Zwei Bundesliga. Greuther Fürth, la squadra, quella che c'ha il logo simile al Celtic. Boston Celtic. Boston Celtic, sì, una cosa del genere. Beh, bene, ci seguiremo di più la Zwei Bundesliga che la Bundesliga, sicuramente divertente. Non c'è nulla da guardare in Bundesliga. Sì, ormai è andata. E allora andiamo in Spagna? Andiamo in Spagna. Spagna. Derby Spagna, dove questa sera giocherà Athletic Bilbao e Spagnol, una partita del lunedì c'è anche nella Liga. In testa c'è ancora il Barcellona, rimane tutto invariato, perché il Barcellona vince 2-0 col Villarreal, il Real Madrid 2-0 col Siviglia, quindi tutto uguale, che vuol dire 4 punti di vantaggio per il Barcellona. Dalla Spagna, l'highlight che dovete andare a ricercarvi è l'incredibile parata di Oblak, c'è del grande portiere, ormai sono tipo 10 anni che è un grande portiere, che fa una parata davvero irreale, andate a cercare, davvero notevole la parata da vedere. Difende la sua porta, clean sheet sul campo del Girona, vince 3-0 facile l'Atletico Madrid. L'Atletico Madrid che è appunto terza in classifica, un po' staccata, 37 punti. Il Villarreal ancora con 2 partite in meno rispetto alle prime, no? Ne parlavamo la scorsa settimana, ha perso col Barcellona, quindi comunque si sta staccando, ma ancora le 2 partite da giocare, in caso di 2 vittorie tornerebbe lì vicino al Real Madrid, quindi comunque una stagione molto positiva. Si segnala un Vinicius sommerso di fischi quando, durante la sua sostituzione, porta la fascia a Courtois, e a Madrid è sempre tosta, insomma, il rapporto tra la tifoseria e i giocatori. Beh, ma ne abbiamo parlato spesso qua di Vinicius durante l'anno. Sembra uno di quelli che non ha digerito molto passare da un allenatore che vi diceva vabbè fate il cazzo che volete, a uno che invece vuole che ti fa il mazzo sia in fase offensiva che in fase difensiva. Vediamo com'è questa cosa dei fischi a Vinicius, da monitorare. Sì, sarà interessante capire Xabi Alonso se avrà la forza di restare anche in caso di non vittoria quest'anno, perché è ovvio che se tu prendi un allenatore di quel tipo gli devi dare un paio di stagioni, no? Anche sulla panchina, quella non puoi dargli 6 mesi, ecco, sicuramente. No, ma è un allenatore completamente diverso da quello che avevi prima. I dirigenti del Reale lo sanno, ma i dirigenti del Reale però fanno spesso queste cazzate. Lo fanno, ma poi rischiano di bruciare magari scelte che sul medio potrebbero essere alto. E quindi, insomma, questa è la situazione. In questo momento, ovviamente, il favorito è il Barcellona. Vince anche l'Osasuna. Cose belle, vince 3-0 l'Osasuna, doppietta di Ante Budimir durante la gita in occasione del grande Bologna europeo di Vigo. Abbiamo brindato in basco di tanto in tanto con compagni di viaggio conosciuti sul posto. Osasuna è un bel brindisi basco, significa buona salute. Bellissimo. L'hai mangiata la cheesecake basca, che pare essere qualcosa di fenomenale? È andato a Vigo lui. Che cena, magari passando. Si trova una cheesecake basca in tutta la Spagna. Non è che la Vigo è lontana dai Paesi Baschi. So. Vigo è in Portogallo. Però io una carbonara la posso mangiare pure qua a Bologna. Ah, ho capito. Ho mangiato una carbonara a Bolzano, meravigliosa. Una meravigliosa carbonara di Bolzano. È uno dei dolci più famosi del mondo e credo che la facciano più o meno specificatamente nei Paesi Baschi, però speravo che insomma Fiona mi desse soddisfazione. Beh, vi posso dire, faremo uno special enogastronomia da viaggio. Abbiamo mangiato in un ristorante che si chiama O Porco, dove era tutto a base di maiale tranne il formaggio, perché con latte di maiale non si può fare il formaggio. Non si riesce, se no l'avrebbero fatto. A questo punto abbiamo il campionato belga. Che è ancora nella situazione in cui le vostre 2 squadre potrebbero giocarsi il titolo. Sono quinta e sesta, quinto il Mechelen, stagione incredibile per il Mechelen, con 30 punti, lo Standard Liegi ne ha 27, e quindi possiamo dire alle Standard. Abbiamo vinto a Dender, che è ultima in classifica, fanalino di coda della Jupiler League. È stato bello. Adesso poi però ci andiamo a riposizionare dove ci piace a noi. Sì, è il Genk che sta giocando male sotto le aspettative, per quello voi eravate sicuri che il Genk prima o poi vi superasse. Ha pareggiato 2-2 contro lo Charleroi e quindi rimane dietro, rimane al 7° posto. Comunque, insomma, lì è la situazione. Beh, che ne dicevamo 30 punti, prima rimane il Royal Union Saint-Gilloise, che come avevamo sottolineato già, e aveva sottolineato in particolare Simone, gioca un bel calcio. È una delle squadre più belle d'Europa quest'anno da vedere. Poi non so se alla fine sarà vincente, ma non so se avete capito, molto spesso a noi non ci interessa tanto che poi la squadra vinca, perché posso dire una cosa, io mi sto un po' annoiando a guardare il calcio in generale, perché l'ultimo colpo al cuore sono stati il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso e i Beyond Limits che vinsero il torneo di Viareggio un paio d'anni fa, le ultime due cose che mi hanno fatto un po' alzare la sedia. Speriamo che 2026 ci porti qualcosa di interessante. Hai scritto la letterina Babbo Natale chiedendo? L'ho scritta, e una l'ho scritta a Sartori, è l'ennesima mail che mando a Bogna, rispondetemi infami, ok? Te lo vuoi dire così? Perché non mi rispondono. Grazie. Mai, vediamo. Perché non gli rispondono? Ma comunque c'è qualcuno che ti chiede qualcosa. Ciao ragazzi, potete parlare un po' di Serie B? Vorrei un commento da Simone, che è uno che ne sa. Paolo, grazie Paolo. Simone, tu che sei uno che ne sa, vuoi parlarci della Serie B? Detta così è un po' grossa e non veritiera soprattutto, però in Serie B sta succedendo una cosa che io apprezzo molto, cioè il Frosinone. Perché Alvini, appunto, ricollegandomi al Cyril Dessès che ha già nominato Fio 20 minuti fa, una mezz'ora fa, fu l'uomo che costò la Serie B a quella magnifica Cremonese di Alvini, che giocava, ma non segnava mai. Adesso è in B col Frosinone, è in vetta, gioca da Dio, gioca bene. Si segnala questo Calò, centrocampista del Frosinone, che io non avevo mai visto, che pare essere al quinto assist consecutivo che consegna, e soprattutto c'ha una balistica, sembra Moro, sembra il vostro Moro, però ancora un po' più preciso, dai 30 a 40 metri per far arrivare la palla nel terzo settore di campo. Cioè, giocatore importante, e soprattutto c'è quel Carvenazze davanti. Cioè, dall'est Europa arrivano sti attaccanti tipo Mika Udadze, Kvernadze del Frosinone, sono tutti fisicamente belli, rocciosi, magari non potentissimo, ma quasi impossibile da buttare giù, piedi fatati come al solito, balistica notevole. C'è pure Bracaglia che gli risegna. Bracaglia era il capitano di quel magnifico Frosinone primavera, dove c'era appunto Cangianiello, dove c'erano Selvini, dove c'era Zerbini ad un certo punto. Mi piace vedersi ragazzi che cominciano a fare carriera, che cominciano a diventare importanti, che crescono bene. E poi quel Catanzaro di Aquilani, appunto, di cui abbiamo parlato già. Sì, e poi c'è anche Raimondo, no? Il nostro Raimondo, che ha già segnato 4 gol. C'è il Venezia, comunque, che è molto caldo, che ha vinto lo scudo diretto a Modena, mi sa, ieri. Adesso non sono riuscito a vedere bene l'immagine. Tra gemellati, poi una festa quando giocano Modena e Venezia, è una bella atmosfera. E il Venezia è terzo, in realtà il Frosinone ha 37 punti, Monza 34, Venezia 32, Cesena 31. Anche Cesena di spendi, nel Cesena c'è anche quel Tommaso Berti, anche lui elemento di quella magnifica Fiorentina di Aquilani. Ripeto, vedere tutti questi ragazzi che da ragazzini cominciano a fare le loro carriere, anche se Serie B stiamo parlando, però vengono su, si strutturano come giocatori, e poi c'è quell'Alfaio Cissella che sono fissato con quel ragazzino del Catanzaro. È un bel campionato che ancora forse non ha una vera padrona, ok? Ed è meglio così, perché insomma ci fa divertire di più. Temo che il nostro regista però abbia ragione, credo che il Monza sia attrezzato. Insomma, si sia attrezzato abbastanza per risalire. Adesso è seconda, dopo aver fatto 11 vittorie consecutive, quindi dopo aver fatto una striscia importante. Finisci pure. No, quindi insomma, in questo momento è seconda dietro al Frosinone. In realtà ancora è molto lungo il campionato, siamo alla 17ª giornata, c'è ancora tanta strada da fare. Affascinante il casino che c'è là dietro, perché la Sampdoria purtroppo non è ultima, ma è un punto dall'ultimo posto. Ultimo c'è il Pescara e poi c'è un mucchietto che si chiude con l'ultimo posto play-out del Bari, a soli 3 punti dall'ultimo posto vero. Anche Bari, zona dove insomma calda, situazione calda, con tifosi che si sono presentati al campo d'allenamento, insomma c'è proprio qualcosa di... De Laurentiis si sta un po' sminchiando. Esatto, il figlio. Il punto interrogativo della Serie B che io perlomeno non riesco ancora a mettere bene a fuoco è il Palermo, perché credo abbia le potenzialità per mangiarselo questo campionato, però invece poi controllo la classifica, è sì lassù, però è dietro le prime 4. Parliamo di Inzaghi, che ormai è diventato mister Serie B, cioè l'allenatore. Con Giampaolo che continua a segnare a ripetizione. Vediamo, il Palermo è la questione impazzita da risolvere, è il rebus di questa Serie B. Vediamo, è un gran bel campionato però. Ieri Palermo va ad Avellino, parte subito in svantaggio, la riprende, rimane in 10 e si fa rimontare allo scadere. Partita abbastanza dolorosa per i tifosi rosanero. Sì, il mio giocatore feticcio di quest'anno al momento della Serie B è Candellone, il numero 7 attaccante della Juve Stabia, che ha dei numeri, fa dei gol così, mi piace moltissimo proprio come aggredisce la fase offensiva. Niente male, Camado. Ne parleremo di più della Serie B, avete ragione. Ringraziamo Paolo che aveva chiesto aggiornamento. A questo punto stiamo andando verso la fine della parte del calcio internazionale. E quindi dopo la Serie B non potevamo non parlare della Serie C, girone B, perché ci interessa solo quello. Non si segna mai. Cioè, qui è un problema. Cambio d'allenatore, arriva D'Alessio, ex allenatore del Rimini fallito, purtroppo per lui, e si porta dietro anche i piccoli al centrocampo. E che vi devo dire, raga, ieri ho visto la prima mezz'ora più bella della stagione. Ricerca della fase offensiva veloce, le trame di gioco molto rapide, palla a terra, sovraccarico dei vari settori di campo, con a te provato come seconda punta, ma in realtà occupava uno spazio a metà tra Eusebi, centravanti, e Marranzino spostato sulla fascia destra. Che vi devo dire, a un certo punto ho chiuso il primo tempo molto, ma molto speranzoso, buttate come al solito in eccesso almeno due o tre palle gol, però cioè, molto propositiva, una fase offensiva molto dinamica, molto diversa da quella che avevamo prima. Poi comincia il secondo tempo, dopo due minuti rimaniamo in 10, espulsione un po' costruita all'arbitro, ma che alla fine nemmeno posso contestare più di tanto. Finiamo in 9 perché si fa caccia pure Alfieri, e la finiamo giustamente per perdere 2-0 in casa. Sul primo gol, secondo me, c'è un chiaro errore dell'arbitro, che tra l'altro stamattina fa un post sui suoi social e riceve il like della Di Spesaro. Dice, uno lo vuole pensare male, però insomma, quando sei tra i professionisti, e sto parlando all'SMM della Vi Spesaro, quando sei tra i pro non ti puoi permettersi cazzate, perché poi cioè, uno già ha visto la partita e ha visto che il primo gol è palesemente irregolare. Se tu poi fai una cazzata del genere, insomma, comincia a essere brutto. È una partita che butti un po' per coppe tue, un po' appunto per una direzione di gara molto molto molto al limite. C'è Maretta giù, la curva a fine partita contesta, attenzione, ci sta, perché tu non vinci da 3 mesi, no, non è che è sempre rose e fiori, però secondo me era giusta la contestazione, però nel momento sbagliato, perché effettivamente la squadra aveva giocato l'addio, andava premiata fino all'espulsione di Battista, e l'ha detto pure l'allenatore Stellone, quello Stellone lì, allenatore della Vi Spesaro, l'ha dichiarato anche lui, ha detto la Samba aveva meritato alla grandissima più di una partita svolta sull'espulsione di Battista. Raga, si perde, siamo appena sopra la zona playout, adesso cominciamo a essere un po' sotto rispetto a quello che mi immaginavo. Vi voglio bene a tutti, perché noi abbiamo perso tante partite, ma mai giocando proprio di merda, ok? Dando sempre l'impressione che è ancora peggio, perché dici come giochi, ma non segniamo. È bravo, ma non si applica. Anche perché davanti intanto rallentano un po', la Vi Spesaro è in striscia positiva, sì. Aveva battuto il Ravenna, capolista, all'ultima. E tu li hai pestati davvero per mezz'ora. E davanti anche l'Arezzo, l'Ascoli, rallentano tutte, non riescono a vincere da un po'. La classifica si mette un po' più corta, in questo momento la San Benedettese è l'ultimo posto nei play-off, insomma, esatto. in quella fase che sta lì non fa niente. Dobbiamo trovare uno. Primo Ravenna, l'Arezzo a un punto, quindi sfida molto aperta, perché solo la prima va su diretta, no? Credo nella Serie C, gli altri vanno tutti ai play-off, al lunghissimo play-off della Serie C, e quindi è importante arrivare prima, e anche un punto può essere utile per i nostri amici di Ravenna, che tra l'altro ci possono ascoltare. Ci possono ascoltare i DAB, cioè in questo momento mi ascoltano pure. Vabbè, non dirò niente, se no faccio chiudere tutti i programmi. Per fortuna c'è la pubblicità che ci salva, dai. Ci buttiamo dentro all'ultima parte di questa ultima puntata dell'anno, perché comunque si avvicinano le feste, vogliamo fare gli auguri. È stato un grande anno. A livello sportivo, ovviamente nel mondo non sta andando alla grande. Abbiamo riaperto la bacheca noi tifosi del Bologna, cosa che insomma abbiamo fatto fatica ad aprirla, perché era un po' incastrata nel... ciancicata. E adesso nell'ultima parte possiamo finalmente parlare dello sport, in cui l'Italia è ormai il numero uno al mondo in maniera totale. La pallavolo, non possiamo. Se è stata sportivamente per. La pallavolo abbiamo visto, i mondiali maschili, i mondiali femminili, la Champions League maschile, la Champions League femminile, l'intercontinentale, l'interplanetaria. Abbiamo fatto una sfida con dei marziani. L'intergalattica. Scherzi, c'erano i vulcaniani con il dottor Spock, allenati dal dottor Spock, e hanno perso contro una rappresentativa di Serie C italiana. Cioè, una cosa incredibile, stiamo vincendo tutto. Possiamo dirlo, siamo i più forti al mondo nel pallavolo. Tra tennis e pallavolo, negli sport in cui c'è una rete che ci separa dal dover affrontare fisicamente gli avversari, siamo i più forti di tutti. Questa è un'interessante tesi che appunto volevo far tirare fuori. Ovviamente non si parlerà di pallavolo, non c'è Velasco come ospite purtroppo, e quindi possiamo andare a parlare di basket, perché ieri la Fortitudo ha vinto di 150 punti. È stata una partita, un massacro, partita abbastanza a caso, cioè nella sua estetica, però sono quelle cose che fanno un po' bene così al movimento, al morale, al morale. 91 a 54 mi sembra il risultato, cioè una roba veramente incredibile. E continua la storia strana di Trapani, ne avevamo parlato la settimana scorsa. Questa continua a giocare senza allenatore, tipo la mi ricorda un po' la democrazia del Corinthians di Socrates. Ah, Socrates, vabbè, cioè, si autogestiscono. Dalla Samba nel 2006 che si salvò senza nulla, senza allenatore, senza proprio nulla, senza società, soldi, allenatore, attrezzature, senza nulla. Neanche i palloni, cioè. Senza nulla ci salvammo. E in realtà è cioè sarebbe prima, sarebbe quella che ha meno sconfitte in campionato insieme a Brescia. Poi la classifica è diversa, pare che adesso si prenda anche 50.000 euro di multa ogni partita per aver schierato in prima squadra un ragazzo del giovanili senza tesserarlo, cioè all'insaputa della Lega Italiana Pallacanestro. Lo sta facendo tutte, cioè ha preso uno per riempire, perché stanno andando via i giocatori, uno che era già là, era già lì di Trapani, però giocava in under 19. Dimenticati di fargli il tesserino da professionista, insomma, quello, perché in Serie A sei comunque professionista, e quindi hanno inserito anche quello. Però la squadra appunto continua a vincere, credo a Milano ha vinto una cosa del genere, dove insomma la squadra, no, non ha vinto Milano, ha perso l'ultima a Sassari dopo una grande striscia di risultati ottimi senza allenatore. Okay, perché secondo il regolamento della Lega Basket il vice può sostituire in deroga il titolare una tantum, poi dopo c'è allenatore-giocatore, e anche con allenatore-giocatore avevano fatto un ottimo risultato a Treviso, solo che poi sono finiti, cioè non hai più spazio per fare questa gag, e se intanto la Lega inizia a mandarti dei verbali da 50.000 euro ogni volta, diventa anche difficile continuare il campionato. Esatto, sì, in questo momento è 10 vinte, 2 perse, e quindi un po' meglio, un po' peggio di Brescia, che è 10 vinte, 1 persa. Brescia che deve giocare contro la Virtus, quindi prima contro seconda, credo stasera sia la partita, quindi in concomitanza con la finale di Supercoppa ci sarà anche quella, 20:30, sono 30 minuti di differenza tra la finale di Supercoppa del Bologna contro il Napoli e Virtus contro il Brescia, che è prima e seconda del campionato italiano, insomma meritava forse uno spazio ancora maggiore di visibilità, no? Una sfida che dovrebbe essere interessante. Virtus che ha fatto una doppia trasferta a Bergamo, a Belgrado, scusa, non a Bergamo. Bergamo la Fortitudo è andato a Belgrado in Eurolega, ha giocato due volte con le due squadre di Belgrado. Non mi sembra comodo, giochi due partite, stai lì, stai ferma lì, una l'ha vinta, una l'ha persa di pochissimo, di un punto proprio, quindi contro la Stella Rossa che ha 7 infortunati, ha una lista di infortunati molto lunga, e veniva da 4 sconfitte consecutive, si è ripresa. Virtus che in Eurolega è subito fuori la zona playoff, play-in anzi, che sarebbero quelli che provano a entrare ai playoff, dove insieme a Milano praticamente, no? Quasi pari, anzi sì, una partita in più ha vinto Milano rispetto alla Virtus, entrambe sarebbero fuori in questo momento dai play-in di Eurolega. Per quanto riguarda invece la 2, la Fortitudo si riprende, vince appunto contro il Ruvo di Puglia, siamo lì nella parte alta della classifica, Pesaro è ancora prima. Sì, la cazzo di Pesaro sta 13 vittorie per Pesaro, 11 per la Fortitudo, ma il calendario della 2 è un casino. In questo momento l'ideale sarebbe rimanere in quella zona di classifica per giocarne una in meno di playoff. Esatto, per fare qualche partitella in meno, già il calendario è molto fitto e molto lungo. Però lo possiamo dire, ormai siamo entrati nel clima di NFL, siamo lì nell'NFL, quasi ai playoff ormai, no? Ci siamo e non voglio insistere sul nome di sto ragazzo che a me fa veramente emozione, ma parlo proprio parlando di tutti gli sport che insomma, una persona può seguire, cioè Josh Allen è veramente emozionante. Questo qui è ad un TD ed è un touchdown di distanza da raggiungere i 300 touchdown lanciati prima dei 30 anni ed è il record NFL. Okay. È il record NFL. È un po' che giocano. Un po' che gioca. Non ha mai vinto l'anello, è ancora in tempo naturalmente per vincerlo. Però qua parliamo di un giocatore davvero cuore gigantesco, battuto solo da un braccio bionico, tutto nello stesso quarterback. È letteralmente il quarterback dei sogni di qualsiasi tifoso. C'è una registrazione da fare che riguarda Joe Burrow, altro fenomenale quarterback di Cincinnati, dei Bengals, quelli tigrati, ok? Quelli con il design con la tigre, i Bengals appunto. E Simo ha risposto alla domanda: pensi mai di dover lasciare insomma la squadra che ti ha scelto al draft? E lui ha risposto quasi testualmente: quando sei lì pensi ad un sacco di cose, che tradotto vuol dire sto cercando la trade, perché lo sappiamo che funziona così. Si vocifera già dei Raiders disposti a dargli qualsiasi cosa ai Bengals, a tradare la casa pur di averlo. Vediamo, perché è un nome molto grande se si dovesse spostare. Si registra anche purtroppo l'infortunio già la settimana scorsa di Parsons per Green Bay e di Mahomes per Kansas, ok, a fine stagione, quindi a livello di tempistiche perlomeno gli è andata bene, perché c'ha tutta l'invernata per... Soprattutto perché non farà i playoff. Non fanno i playoff per la prima volta dopo 12 anni. E ieri grande partita di Herbert, dei Chargers, altro quarterback meraviglioso. Insisto nell'augurarmi un Super Bowl 49ers e Bills, perché posso fare ammazzate con Fio. Questo è il tuo obiettivo, è quello. Mancano due partite al termine della regular season, più San Francisco Indianapolis, che sarà giocata credo domani, insomma ce n'è una in più da giocare, per loro la devono recuperare, quindi in realtà ancora non è definito la griglia, ci sono ancora possibilità di sorprese, non c'è la mazza campionato proprio che è più forte dell'altra che può schiacciare. Una volta usciti i Chiefs, che erano i dominatori degli ultimi 10 anni, no, esatto, c'è un bel brodo primordiale, è molto più eccitante così, se devo essere onesto. Anche perché i Bills, che comunque rivincono contro Browns. Cleveland Browns, decidono di buttare via il primo quarto sempre. Cioè loro decidono di rimontare la partita. Ogni volta succede così, è incredibile sta roba. E alla fine vincono anche a Cleveland. Nei Browns si segnala la presenza come quarterback titolare di Shedeur Sanders. Uno dice, vabbè, chi cazzo è? Essere il figlio dell'uomo colpevole della mia passione per l'NFL, cioè Dion Sanders. Non so se te lo ricordi, Dion. Assolutamente. Te lo ricordi? Beh, una vera leggenda di questo sport, un personaggio metafisico. Un atleta che ho letteralmente adorato. Il figlio fa il quarterback per i Browns, se la cavicchia, inizio carriera, vediamo. Certo che quando lo guardi in faccia fa impressione, perché gli somiglia veramente tanto, ma veramente tanto, ed è bello vederlo, cioè è bello sapere che il figlio di Dion insomma sta cercando di fare carriera. Oggi abbiamo citato comunque squadre importanti nella storia, tu hai citato i Cincinnati Bengals. Io la prima partita di football che ho visto è stato un Super Bowl Cincinnati contro San Francisco, certo. Il primo, e dopo qualche minuto segnò questo un ragazzo che a quel punto divenne il mio giocatore preferito, che era il quarterback, si chiamava Montana, Joe Montana si chiamava. Aveva fatto touchdown saltando sopra la linea, era da una yarda. Il Montana Turais appartiene alla leggenda della NFL, esatto. Quelli poi della generazione nostra sono tutti un po' tifosi di San Fran, proprio per questo motivo. Quel Joe Montitalo con mio, torniamo un po'. Joe Montana è stato il primo nome appunto che abbiamo conosciuto vedendo le prime partite, il primo Super Bowl proprio, sì, che sì. Credo venne trasmesso anni 80, tipo una cosa. I 49ers sono squadre degli anni 80, ribattezzata perché ne vinsero tipo 4 tutti negli anni 80, quindi è quel periodo là quando noi eravamo cinni. Eravamo cinni, come si dice, cinni. Rimaniamo negli Stati Uniti? Sì. Rimaniamo negli Stati Uniti, NBA, dopo un monte di anni, dal 1973 non succedeva, aprono la bacheca ai Knicks. A proposito di bacheca aperta, il Bologna. Mamma mia, ragazzi, incredibile. Bologna 74, con l'ultima Coppa Italia, i Knicks dal 73 si sono inventati un trofeo, diciamo così, che in questo momento ha sempre portato molta sfortuna. Nessuno che ha vinto l'NBA Cup è riuscito a vincere poi il campionato. Addirittura è una statistica statistica strana, tutte quelle che hanno vinto l'NBA Cup non hanno fatto un turno di playoff, sono stati eliminati al primo turno dei playoff. Adesso no, so che in studio c'è un tifoso dei Knicks, non vorrei che... No, serio? No, davvero? Ah, ma vero, vero, me l'ho dimenticato. Eh sì, il nostro regista che è un super tifoso dei Knicks e ci ha anche scommesso sui Knicks in una finale, so che andò male quella scommessa, ma mi ricordo bene. Però i Knicks insomma vincono questa cosa, questa roba strana che è fatta fondamentalmente per giocare su parquet osceni. Non so se avete visto i parquet delle partite. Ma che succede quest'anno, infatti? Cioè, ogni tanto fanno sto cambio di parquet, quando è guardabile. Allora, le partite, diciamo, l'NBA Cup tiene all'interno della sua classifica delle partite di regular season, che cioè sono le partite della regular season normale, no? C'è una partita normale, però se hai un campo particolarmente brutto, allora fa punteggio anche la NBA Cup. Ok, ma stiamo a parlare della Super League in Belgio o siamo ancora di NBA? NBA che ha preso, comunque ha copiato la Coppa Italia di basket con questa NBA Cup, è una roba molto simile alla Coppa Italia di basket. C'è anche una collaborazione con la Lega Serie A per i palloni brutti, l'anno prossimo incasinano anche il pallone. Ma voi mi dovete spiegare perché a questo punto, devo dire, l'umanità intera ce l'ha contro l'estetica. Cioè, da quando è cominciata sta ricerca del brutto? Cioè, perché il bello non piace più? Com'è sta facendo? Domanda interessante. Purtroppo non abbiamo quelle due ore di tempo ancora per discutere di questa cosa, però in effetti questo è. Però al volo capitalismo, New York Knicks, uno dei brand dell'industria dello sport mondiale più riconoscibili, che non vinceva da 52 anni, questo tocca dirlo. Ma anche capì quanto è forte però quel brand. In NBA segnaliamo l'ennesimo record di Nikola Jokic, che diventa il centro nella storia dell'NBA con più assist di tutti. Cioè, qualsiasi nome vi venga in mente, lui gli è passato sopra come un... E poi potrà giocare ancora partite. Sì. E lo ripetiamo, è uno a cui non frega assolutamente nulla. È uno a cui non frega nulla della pomposità delle starlet, delle luci, della magnificenza dell'NBA. A lui non interessa nulla. Vero antidivo, lui non vede l'ora che finisca la stagione e poter occuparsi di cavalli. E birre. E poi cavalli trotto, cioè non... Nemmeno il galoppo. Il trotto, uomo del Novecento. Uomo veramente. Varenne, immagino sia un estimatore di Varenne, ma mi sa che c'era pure qualche cavallo. Ah, sì, proprietario anche di cavalli, cioè i suoi cavalli, e li segue nelle gare quando può. Va in giro di notte per Ferrara a cercare dei pacchi aperti per comprare delle peroni, perché deve visionare dei cavalli. Questo, insomma, è c'è vero, testimonianze. Quindi, insomma, può succedere anche questo, di vederlo fuori dalla stagione. Da vedere, non gli daresti, non ha un fisico particolarmente, anzi un po' cicciottello, è sempre stato un po' criticato per quello, però ha una capacità di vedere il gioco e di a due mani così educate. È un adulto che gioca con i bambini di 2 metri per 140 kg di muscoli, però li prende in giro letteralmente. Appunto, ha superato Jabbar, che era quello che aveva fino adesso come centro il numero più alto e maggiore. Jabbar ha smesso a 41 anni di giocare, cioè gliene mancano, esatto, con 10 anni prima. Io l'ha già superato. Domani vado in comune, vado a farmi cambiare il cognome, ci aggiungo una IC alla fine, Malonic, in modo che diventi un fenomeno a qualsiasi tipo di sport dove ci sia un pallone. Ciao, adesso posso dire, lo puoi fare tu, così anche tuo figlio cambia cognome e allora lui potrebbe diventare cosa puoi fare? Carling, posso darmi a qualcosa del c'ho le Olimpiadi. Milano Cortina, il trotto, c'è anche il trotto. Trotto, beh, no, mica facile. No, cioè, deve avere un filo. Ha ragione, perché io sono molto leggero di peso e quindi sarei perfetto per andare per potresti fare essere un fantino, potresti essere un fantino, potresti, se ti chiamassi Malonic. E niente, domani vado, metto sacci alla fine. Prova, perché potrebbe essere interessante. Per quanto riguarda il resto dell'NBA, rimane ovviamente Oklahoma al primo posto, però ha qualche sconfitta in più, nel senso che ne ha perso un'altra, 3 sconfitte. Gli usurpatori di Oklahoma, proprio loro. Che sono appunto in questo momento nettamente la squadra favorita, rimangono la squadra favorita con 3 sconfitte e su 25 partite. di là a est è proprio operazione nostalgia, perché le prime quattro sono Detroit, Knicks, Celtics e Fila. Ma è bellissimo, cioè non può esistere, non possono esistere un quartetto migliore in beta. È proprio è quella lì all'est. Vabbè, cioè, c'è stato anche Chicago a est, in beta. Sappiamo tutti, diciamo. Sappiamo tutti perché. Io spesso ho visto anche quelli in quegli anni lì. Però in realtà sono, diciamo, più anni 80, ecco, più che anni 90, perché nei 90. Anni 80, sì. Più anni 80, ed è interessante. San Antonio Spurs che perdono la finale di NBA Cup contro i New York Knicks, sono comunque secondi in questo momento. Cioè, perché uno pensa agli Spurs, a Wembanyama, giustamente, però anche Kessler, anche Fox, cioè, sembrano giocatori, insomma, notevoli. È una bella squadra, seconda in questo momento davanti a Denver, appunto, di Jokic, e ai Los Angeles Lakers, di ormai sempre di più di Doncic, perché LeBron, insomma, inizia a avere 41 anni come Jabbar, di cui che avevamo citato prima, e Doncic sta facendo una grande stagione, anche se lui è autocritico. Quest'anno ha cambiato atteggiamento, partendo dal fisico, ha gestito molto meglio il fisico nell'estate. Quello LeBron ti spacca in due se non ti alleni serio. Secondo me credo che molto ci sia stato di questo, sì. E forse solo lui poteva cambiare la testa di Doncic. Doncic, altro giocatore che è strano, particolare, sembra lento, ma non lo è, cioè ovviamente non lo è. Sembra è stato passato. Sì. Sempre eppure c'ha la magia nelle mani anche lui. 30 punti spesso, sciorina 30 punti, in vario modo, anche lui un tocco incredibile. Del resto Doncic finisce felice anche lui. Ma te lo dico, domani vado. può essere l'idea. Volevi aggiungere qualcosa, Fio? Hai qualche notiziola che... Ma guarda, siccome ci perdiamo nei meandri folcloristici della rete, c'è uno specialino su Steven Adams, centro di Houston, neozelandese, che fa una dieta che se la facessimo noi tre probabilmente non arriveremo alla prossima puntata. Carne cruda in grande quantità, moltissime uova e un piccolo spazio per la tradizione neozelandese. Sulla tradizione neozelandese non sono molto preparato. I kiwi? Sì, probabilmente sì. Posso dirvi tipo che l'unico lascito... No, ma i kiwi sono dei mammiferi, credo, degli animali. No, il kiwi frutto si chiama... È un uccello, il kiwi, che dicita. Ma ci sono tutte e due, probabilmente. Ok. E loro mangiano sia i kiwi frutto che i kiwi uccello. Si fanno polenta con gli osei col kiwi, capito? È tutta una roba strana. Comunque colazione 6 uova e mezzo chilo di macinato. Crudo, così. Macinato crudo. Io mi ricordo la mia mamma che il macinato crudo ce lo preparava pure quando ero più. Cioè, è una base proteica, evidentemente una dieta a base di proteine. Oh, sembra che se funziona. Voi avete Ciauscolo, quella zona lì, una salsiccia spalmabile. Io consiglio sempre a tutti la salsiccia imbazzita. La conoscete? È quella morbida, misto tra carne maiale e fegato. Morbida, piccante, raga, una bomba. Devo provarla. Non l'ho provata. Tra l'altro stiamo avvicinandoci all'orario del pranzo e quindi possiamo fare i saluti con calma. Buone feste a tutti, ci risentiremo nel nuovo anno, e speriamo di poter anche aver aperto la bacheca, chissà. Siamo dei grandi di Trovano centravanti. Uno che segna per la San Benedettese, magari anche uno che segna. Un saluto a tutti, buone feste. Bella.